Foggia, buona grande. Ecco, l'altro, il magno lo vuole mandare a Cagliari, o fuori? Signori, sono pochi, no? Siamo quattro cani, mi. Quattro cani e due gatti, perciò non è che fuggono i segnali. Yeah. una scala, vai. Yeah. così è. E vabbè, ma facciamo. Oggi si diventa di vecchi si gusti, sto giù maledo. Sto mettendo io, me ne nego. Se rossegna in quel punto lì, vuol dire che sei tu a casa te ne neghi. se coincide una cosa, sono è quella la pazienza, non so cosa dirti. Ci arrivo a Santiago 5 io. brava, ma Luca che mi ha fatto? Non so, ti deve essere girato, ma è una cosa che non è trattato la mattina. Tanto non sento, penso che ci fosse anche Luca. No, già c'è, Daniela, ma io fino a dopo, che già c'è. Bellina, ma non niente la nuova. Thank you. interessa la radio com'è? Bella chiara, bella chiara. KK, andarmene vera, ok. E dai, la famosa vecchia a casa. Da un filo qualche cosa. come il rischio. A me di cerca le gare. Oh, oh. Ehi, stamattina lei. Fermate. Come? Fermate. Come? Ti sei fermato, vedi? No, era in fretta. Cappagana. Papà. Mi dirai. C'è stato un break, però non lo sentivo, fuori frequenza. Avete sentito? No, ragazzi. Questo, io ho sentito, ma mi sembrava un altro canale, fuori frequenza mi sembrava di dire. E niente, abbiamo arrostito e cose, siamo stati bene, tranquilli. C'era una bella giornata, al sole. C'era anche gente che stava facendo il bagno. Ho visto a Luca e a Fatto tornando, quando stavamo andando li ho visti. Adesso ritornando a Natalia ho visto un tipo volando in moto. Volando? Volando. In quella rotonda che c'è praticamente per andare dalla centrale del latte verso la piazzetta, lì c'era presente. Il moto è andato dritto e la macchina che stava all'interno della rotatoria ha continuato ad andare, l'ha stretto e praticamente ha puntato contro la rotatoria, è volato dentro la rotatoria, per fortuna ci avevano messo la terra per piantare le piante e lui è stato sulla terra, per fortuna ha rotto la colina, non ci ha fatto quasi nulla. Max. Comunque devi vedere andando a Bosa in quelle curve quante moto passano, se non mettono lì vanno 20-30 moto insieme, tutti sparati nelle curve di vedi. Ne ho trovato uno, ne ho incrociato uno di moto raduno, sicuramente tra amici, non lo so, una ventina di moto, tutte Yamaha, Honda, Kawasaki, tutte moto grosse, tutti drubelli, momenti di macchina, facendo le curve piegate al massimo, non ho so trovato uno davanti proprio. Stavo sotto, che si fanno stava a sé, mi fa telefono, ha fatto più bello. Lì hanno caduto in moto, ha strampato e ha fatto danno anche, grazie a tutta la carena. Passeggiata, ogni tanto la tirata nella fagna, non è che devi correre per forza a mille, ma infatti mi vedi prima che arriviamo. Puoi vedere come spiegava quelle curve a gomito, cazzo, puoi vedere come spiegava Frege perché ha visto molto GP e cosa sono esaltata. Nelle altre volte danno da fare in accademia. facci i pezzi, già non lo fai, forse costa anche di più la roba da giotto, che sta cromata, tutta faccia perfettina, ragazzi. Comunque le carene costano un bel di su. E a me. Non so proprio già giusto. Perché io sono per come di sotto, no? È per quello che sei. Ma ti passa niente, stai. E tu dici attraversato un rito di marcia, ma grosso, quando stavamo trovando l'alghero. Proprio l'ho visto camminando nella strada. E Marco, ferma a campare la papà, non si possono toccare quelli lì, lascia che poi c'è il pilucco. Dio, un pilastro, è così. È dormito, mio poverino, è stanco morto. Lo sai, aveva fatto fare una scalata, una ruccia allucinante per andare a pescare. Una scalata allucinante gli ho fatto fare. Perché a toccare? A pescare te la porta. Sì, abbiamo anche pescato. Siamo andati dietro le rocce, siamo andati tra, come si chiama quello quel paese? Tra Bosa e Vivi, ma come cacchio si chiama, non lo ricordo. Comunque, dopo le curve, cioè dopo Alghero, sono scelto quelle curve Vidalba, Vidalba. Ah, oh, Villanova, Ah, è Villanova, non è Villanova. Tra Villanova e cosa? E Bosa. Villanova non sapeva. Lì siamo andati. Un posto bellissimo, c'era poca gente in spiaggia, gente che faceva sui bagni, tedeschi per allucinare. Oh, sa, non ce l'ha portato. Tu dovresti usare, non vorresti. No. Non so, lì si mettono i sedili di pecora nella mano. Tra mese e ghiaccio fanno freddo, capito? Questa è la stessa cosa. A me mi ha raccontato questo mio collega che è andato in Germania a trovare il fratello. Ha fatto questa grandinata, meno male che c'era un ponte che si è messo sotto con la macchina, gli ha fatto le ammaccature della macchina, grande, ha cattivato i balucci a dire, tutta ammaccata era la macchina. E lì si è andata in Germania, ma quando andata in continente quando va a grandi a fare un'idividria. Ah, me l'ha fatto vedere, c'è tutta la macchina fuori mitragliati. Ma lo sai, cazzo, il forziero di Angelo, la buon'anima, che si mette da sempre d'allarme, dice, c'è sempre il continente. Ma mica perché gli rubavano la macchina, per trovarla la macchina sotto la mese. Ah, era per un funello. A Svizzera erano i divini, fu di anessi da casa, perché là ce ne erano 2 metri di corso di cinese. E dove era? Al nord, a Como, vicino a Milano. Quella zona lì sempre nebbia, c'è tu. Anche quando andavo da mia nonna sempre nebbia c'era. La mattina non vedevi il casicciato dall'altra. Allora, è pure bella festa, milanese. Tra nebbia, neve, grandine, lì, giù, e fa trovare la macchina, metteva l'allarme, no, faceva, perché non, se no la vedevi la macchina. Si è pellito. Era coperta di neve, glielo credo, ma roba di noi di qua, che faceva qua, no, non fa niente, non penso a quello che fa il mio credo. Non ti vedo la bussola da fissata al giro. Mia nonna c'aveva sempre la pala dietro la porta. E mi ha detto che una volta è andata a aprire la porta e non riusciva a aprirla. È dovuta uscire dalla finestra perché le porte non aprivano, c'era tutta la neve davanti, è dovuto tutto spalare davanti. E scaldando i cosi dell'acqua con la fiamma fisica perché non c'era acqua, si chiedevano i bambini. Me ne aveva contato poco. E lì già fa freddo, è meno 7, è meno 4, meno 7. E infatti, figurati. Infatti, così il manco di cane è basso, prende la mappa a me di tutti. Questo ghiaccio, dice che ghiaccio anche è liquido del raffreddamento del radiatore. Ehi, infatti, non è così. Infatti, è che mettono la zero, per quel motivo, perché sennò, oh, io faccio. Massarino dice che praticamente la mattina andavano a fare tutte le serie di cristallo ed erano bloccati, ghiacciati, congelati. Qua, ma se questa è più possibile che così si rinocchi, figura dei continenti, qua, mi, dove sono io. Si la bomba, non fa la leva, ma io sono piena di ghiaccio, leva di ghiaccio, ma non fa la leva. Così. Allucina. Ma la batteria non mette anche che la serratura della macchina non entrava la chiave, il ghiaccio si forma dentro, non la serratura. Ehi, si è messo un bello da domani, ma si viene l'allarme a passare la macchina, perché la coppetta di neve, però quindi quando suonava e lampeggiavano i fari, la vedevano. Non cerca macchina, invece che cerca persona, cerca macchina. E allora, poi gli sono fatto la mano di la botteggiava, si vorrebbe un po' carico. Quando voglia neve, si sente scalando neve, scavano lì, scappano neve, si dice della cosa. E così mia nonna. Mia nonna parlava sempre la neve prima di... Perché a volte uscivo, meno male che abitava in basso, uscivo dalla finestra, salta con quel pezzettino e era arrivato in terra, abitava proprio a piano terra, c'aveva la casa così, poi si saliva su e c'erano la zona notte. Mi dico che gli altri di zombie, due si venivano riblassati, non si riblassati. E manca lavorare, ma già sono attrezzati lì perché passano le macchine che buttano il sale, capito? Sono molto attrezzati, fanno strada, allargano la strada per passare le macchine. Infatti se non attrezzati, no, guarda, non si possono muovere. Se gente fa chilometri solo per andare a lavorare, fanno i vasi 50, fanno i vasi 20, fanno i 20 chilometri, fanno a travagliare, quindi tutto. Anda in treno. Lo so, qui fanno un bel chilometro. Anche il mio cugino ha detto qualcosa, per andare in fabbrica da Cugione a Milano, devono prendere le fare due mesi. Infatti, poi dice già, noi già è su conto, no? Noi che siamo dal re. Tutti quanti quasi sei o te, qui no, fai di un gruppo. Si fa un bel da noi di dire no, che mica la tenesa, oh, va le cose chiodate, poiché era attrezzato, quello si muoveva sempre. Se è così che bisogna attrezzarsi, se no va in lupo. Ah, i miei cugini comunque dalla fabbrica, da lavoro in fabbrica tutti e due, ci hanno fatto una vita con tutta l'inglese, piscina, a livello alla grande. Anche un vecchio non vi rimane mai bene, no, più da domani. Era sempre attrezzato, sì, perché è stato 6 anni in Germania, da lui mi va 2 o 3 anni in Svizzera. Figurati tu, se lui aveva problemi di muoversi con la neve o il ghiaccio. Sì, ma se tu hai fatto la cosa per andare a noleggio così lo stesso. E adesso addirittura dice che ha mitigato il tempo in Germania, perché da quando c'era lì era brutto veramente, lì andava a poco di rischi a me, ha sentito un briagone che mi praticamente, mamma mia. E lo so, qui perché hanno l'abitudine di andare in bicicletta, solo quando c'è tutto il tempo che sono i miei. Allora. Sempre in Olanda la polizia si chiede di subiato perché sono vanno tutti in bicicletta, no? Si arrestano e se ne prendono la bicicletta. questa, per lavarmi un domani quando si chiama. Che te la leva? Hai gente che si è stata, che vanno in difficoltà, ma lo dici, perché se non tanto lo sanno che mi prendono la patente. Io non busco né, Gianni, non ti dico se è vero. Tu sono in Germania. In Germania si faccia fare il viaggio, quindi bisogna la patente. Di polizia non ne vedi mai. Come ti va l'infrazione vai a Bastia da Rito. Lo so, capitale di... Però mi stavano dicendo anche per lavoro in Germania è tutto adeguato allo studio di vita. E allora, già l'ho preso, è tutto diverso da qua. Sì, se lo stipendio sono non più nemmeno come sono qua. Però vai a comprare la roba e non costa così cara, è adeguato. C'era un figlio che è stato in Olanda e a me me l'ha detto. Io entrati nella banca, fila non ce n'era mai. Tu in tasca non ne avevi mai, perché lo stipendio te la prestavano direttamente in banca, no? E da lì si pagavano la luce, la spinta, si fila, ma non devi fare niente, pagava di pure avanti. Sì, Dio. E allora come faccio io? Tutta la roba se lo spendo e me la pagare direttamente la banca. Ehi, ma oltre a quello, tu vai in banca, non ne trovi fila come qua. Ma senti che non viene fila, se ne vado mai in fila. Andi in fila, tanto va a che cazzo conto, va a che cosa, ma fila non ne trovi, non è come qua. Perché fa ogni cosa che fa la vita. E quindi dirà, non viene, non esiste. Dice che gli stipendi sono adeguati alla vita, praticamente prima lo stesso stipendio, però la roba è meno cara. E oltre quello risparmio il tempo, perché non vai a fare spese per commissioni, e intanto si usa più davanti. Ah, ma io ti parlo di un sacco di anni fa, loro sono più organizzati di noi. Diciamo che già da tanti anni dopo che fanno la patente a punti. Sì, la carta di credito, loro se l'hanno da chissà quanto tempo, noi che magari vediamo come sempre ci sono. Figurati. Ma è tutto diverso. Tu di documenti come ci sono, altro che qua. Mi ha dato a capire, mi ha voluto entrare a capire la mia stessa. Lo so, ci sono due locali, ci sono vie che sono tutti locali. Allora, ma di dimmi. Lo so, mi dice vita sempre. Poi me lo raccontava anche la ragazza mia, che l'ha detto a loro, che è stato in costruzione di Germania, quindi lo stato per te. Diciamo che chi c'è stato se penso di essere tornato qua. E non ti vai a fare la fama in data, perché non c'è il lavoro, non c'è di questo, non c'è di quello. Non ti dati di italiano di giustizia ti mandavano a travagliare, se si mettavano in travaglio. Però si chiamavano a travagliare di andare, a chi si non andava a travagliare, si chiamavano a me, e a parlare meglio di notte. Andava. Se tu ti decidavi non ti fai più travaglio. Io non so, non ho detto ieri che c'è stato. Perché l'ho detto questo? Chi dà la zona di giustizia da campare fino a fare i travagli, però non si dà gli altri accampamenti di travagli, non c'è problema. E al Duca gli altri non li senti? E io sto appena rientrando, quando sei rientrato tu, sono rientrato io e a te. A vedere tutto, ma non si fa da lì. Sarà una banchettata. No, era una pesca. Sì, vabbè, si stava mostrando. E vabbè, aspettiamo che entro su. Vediamo dietro. Qui la visita è in casa che fa. Sto guardando in televisione a farlo e farlo. Avrò fatto a te. E arriviamo a piaccia. Mi fa stare a vedere quella. Gracias.